Noi iniziamo questa serata salutando con grande piacere Stefano Petrungaro, che è un bulgarino e ho scoperto con grande gioia, ecco, che è un nostro concittadino che però da anni si muove in giro nel mondo e in particolare al momento sta lavorando come ricercatore presso l'Università di Venezia a Ca' Foscari e fa parte di numerosi comitati internazionali che lo vedono attivo proprio per la sua caratteristica precipua, che è quella di occuparsi della storia dell'Europa orientale contemporanea nelle varie declinazioni, quindi la marginalità, correggimi se sbaglio, e poi vedevo anche l'uso civico della storia, il discorso dell'impero asburgico nella sua fase finale, insomma ha un vasto e interessantissimo curriculum, una produzione bibliografica altrettanto notevole e ringrazio infatti Andrea Felis che è qui con noi perché nella concezione di questi incontri del Caffè Philosophique e Caffè Scientifique ha coinvolto Stefano Petrungaro per questa nostra serata che porta il titolo di Strange Jobs, ritratti di marginali nell'Europa contemporanea. Come sempre invito anche le persone poi a visitare la biblioteca e ad usare la biblioteca, ecco, perché per noi i libri e tutta la documentazione che riusciamo a recuperare a vostra richiesta è segnale di vivacità, di vita, ma soprattutto è una cosa che appartiene al cittadino e quindi invitiamo tutti ad usare e ad abusare di quelli che sono i nostri documenti e materiali che possono aiutare chiunque ad approfondire un argomento o comunque a crearsi un percorso libero di conoscenza continua. In questo senso la biblioteca organizza quasi quotidianamente degli incontri, delle attività. Vi voglio ricordare domani un film che verrà proiettato in questa sala, fa parte di un ciclo dedicato alla dipendenza affettiva e quindi ci sono sia dei documenti, dei libri d'esposizione, ma soprattutto anche questo film, adesso vi dico anche il titolo, scusate, Revolutionary Road e la regista è Sam Mendes, domani sera alle ore 18 qui in questa sala. E poi giovedì che è il 21 marzo, la giornata mondiale sancita dall'UNESCO e dedicata alla poesia, organizzeremo sempre in questa sala una cosa nuova, particolare per celebrare la poesia, che è il Poetry Slam, ovvero una specie di agone tra poeti anche così alle prime armi, dove ognuno potrà recitare il proprio componimento. Alla fine verranno scelti 3 vincitori con l'aiuto del pubblico e di una giuria e festeggeremo grazie anche alla collaborazione della Scuola Alberghiera Ritz, del Teatro Stabile e di tante associazioni così di amanti, di appassionati della letteratura. Vi invitiamo anche a venire a vedere, a curiosare quello che faremo, perché probabilmente ripeteremo questa edizione periodicamente, ecco, per coinvolgere e per creare una partecipazione diretta del pubblico alle attività della biblioteca. Ecco. Non mi dilungo più, vi lascio la parola, vi ringrazio ancora, complimenti ancora a Stefano Petrungaro, grazie ad Andrea Felis che ci aiuta nella concezione di questo calendario e soprattutto ricordo che il prossimo appuntamento del Caffè Scientifique e Caffè Philosophique sarà il 9 aprile, confermi, vero? Sì. Ringrazio anche Esther Ridolfi che è una compagna ormai di viaggio da tanti mesi ed è preziosissima nella sua attività. Buona serata a tutti, grazie. Ecco, adesso si dovrebbe sentire. Buonasera anche da parte mia e ringrazio naturalmente Valeria Teresa perché quest'anno la prima edizione coordinata insieme con la biblioteca radiologista del Caffè Philosophique ci permette di costruire un accordo di coregia per quanto riguarda appunto questa serie di appuntamenti che sono giunti ormai per quanto riguarda il discorso del Caffè Philosophique alla 7ª edizione, quindi insomma è una fase ormai ampiamente consolidata che fino a quest'anno appunto qui al Centro Trevi già permesso di costruire anche una piccola comunità altamente fidelizzata nonostante gli incendi, terremoti, maremoti e disastri mari che ogni tanto possono anche venire a colpire il corpo. Una serata c'era una nevicata furibonda e riuscì comunque a arrivare a un certo un pubblico veramente di persone ormai assolutamente affiatate ed interessati, che ringrazio vivamente per essere qui questa sera, perché appunto è una giornata particolarmente complessa, per lo più anche una bellissima giornata primaverile, un po' fresco, ma e quindi non invita tanto a chiudersi dentro, ma a stare più per le strade, magari anche in società. Quindi qualcuno ha approfittato sicuramente dell'incendio per allontanarsi per dedicarsi a una maggiore diciamo socialità, e proprio anche di socialità che parliamo questa sera. E mi permetto solo di correggere la pronuncia, Stefano Petrungaro, che è qui con noi, quindi che è abituato al cognome con accentazioni diverse, ma che già da lunghi anni ho la fortuna e veramente l'onore di conoscere, di essere in amicizia, e rispetto al quale lo considero, lui lo sa, una piaggeria, una delle figure più interessanti della storiografia contemporanea giovane, perché come tutti possono ben vedere si tratta comunque ancora di un giovanotto, anche se dal punto di vista del curriculum universitario ormai è veramente ampio, strutturato, articolato, ancora di fronte a sé molti anni di attività accademica e di ricerca, che abbiamo avuto anche così la fortuna, ma grazie anche alla sua generosità, alla sua disponibilità, di averlo ospite nonostante fughe varie attraverso questo frenetico tourbillon di viaggi che caratterizzano la sua storia personale e anche in parte la sua storia intellettuale. Viene orora da Venezia, un insegnamento tenuto anche oggi lì alla facoltà, come si ricordava, di lingue, dove riveste l'insegnamento nella cattedra di storia dell'Europa orientale, e che ovviamente lui, che nasce come, non so se si possa dire, balcanologo, balcanista, tutte e due, gli permette di portare anche nella città della Serenissima, la dominante, come viene chiamata nel Cinquecento, uno sguardo importante, contemporaneo, su quello che è una realtà molto vicina geograficamente, anche rispetto al nostro nord-est, e nello stesso tempo una realtà che appare sempre circonfusa anche sul confine orientale, in una sorta di singolarità, di una fisionomia talvolta sfuggente, e che soprattutto a partire dagli anni 90 del secolo scorso, da poco superato, improvvisamente appassa dentro lo scenario internazionale come una sorta quasi di specchio in cui un'intera società, un'intera cultura europea ha avuto modo di guardarsi dentro un tema specifico, che è il tema delle nazionalità. Io credo sia un caso che Stefano Petrungaro, nato a Bolzano e qui vissuto, insomma, è ben presente in tutta la sua formazione giovanile, la primissima formazione, abbia, credo, avuto anche un'attenzione, una sensibilità rispetto anche a qualcosa che in qualche modo dentro lo scenario toatesino ha un'altra figurazione, ha un'altra identità, in qualche modo non si riconosce tuttora all'interno di quello schema violentemente conflittuale che ha assunto invece la questione delle nazionalità nell'Europa centro-orientale a partire soprattutto dalla seconda metà degli anni 90 del Novecento, e che, anche se assopita, in questo momento ancora di quando in quando fa emergere alcuni bagliori di tensioni, di conflittualità che talvolta rientrano anche nella nostra storia, nella nostra quotidianità. Molte famiglie di Bolzano oggi provengono da realtà disperse, frantumate, in qualche misura addirittura da identità perdute, che facevano parte di un mondo, di una società, di una collettività che oggi non esiste più, una collettività di forte anche rimescolamento, anche di in qualche modo di tentativi, di sperimentazioni diverse di ridefinire i profili nazionali, e che poi con l'esplosione delle guerre balcaniche novecentesche della fine del Novecento non si sono mai più riaccasate in qualche modo dentro a quel profilo. Molte famiglie, anche in epoche recentissime, la realtà del Kosovo, il Kosovo è una realtà tutto sommato apparentemente periferica, che negli ultimi 10 anni ha assunto di nuovo notorietà anche a causa della dichiarazione di indipendenza dell'ultimo Stato ex jugoslavo e che ha rivendicato la propria fisionomia, di cui parecchie, anche, parecchie famiglie sono venute a risiedere anche in provincia di Bolzano, curiosamente, dove evidentemente c'è anche un luogo, uno spunto per molte realtà per ricostruirsi. Se andiamo a vedere alcune storie di queste famiglie, andiamo a scomporre le genealogie familiari, troviamo quello che è il quadro, gli specchi al quadro di quello che era anche il sogno jugoslavista novecentesco, e quindi parenti di Bosnia-Herzegovina, un altro da un pezzo di Macedonia, un altro è serbo, qualcuno è croato. Ecco, dentro a queste fisionomie che oggi invece sono separate da confini nazionali, statuali, eccetera. Stefano Petrucolo si è occupato nella sua ormai, direi, pluridecennale carriera di insigne ricercatore, riconosciuto a livello internazionale, lui poi magari non lo dice, si mette un po' in ombra, ma dagli Stati Uniti all'area parigina, eccetera, la sua carriera, Londra, Lipsia, Regensburg, eccetera, ha attraversato, un po' nomade culturale, diversi punti di qualità, di aggregazione di ricercatori europei che si occupano di realtà balcaniche. Curiosa anche questa cosa che ci sono proprio pagine texane di studi balcanici, che è una cosa scoperta attraverso due interventi, credo che sia ignota ai più, e che gli ha permesso di sviluppare un suo itinerario di ricerca profondamente originale, partito da bisogna dire un'impostazione abbastanza classica, tra virgolette. Ho avuto la fortuna e anche l'onore di conoscere uno dei maestri di Stefano, che è stato Stuart J. Wolfe, che appartiene a quel grande filone della storiografia anglosassone che sul tema della nazionalità e della nazionalizzazione ha costruito gran parte del proprio repertorio di riflessione e di ricerca, e da lì poi si è sviluppata una ricerca che è giunta verso questi esiti che andiamo insieme a sentire con la sua relazione questa sera, questa chiacchierata che cerchiamo di fare, e che tocca dei punti su cui forse la storiografia, diciamo, classica novecentesca era un po' più ritrosa a muoversi, su quel confine variabile di categorie sociali sfuggenti, di oggetti di ricerca socio-storica che talvolta non sono così chiari anche nei propri contorni, e che qua e là, anche questo si vede nell'ampio repertorio bibliografico della ricerca di Stefano Petrungaro, toccano anche quello che i francesi chiamano gli soir de l'imaginaire, la sensibilité, qualcosa che sta dentro un profilo più vicino, ecco, alla storia dell'emozione addirittura in alcune cose, delle percezioni, delle rappresentazioni sociali collettive. Se Stefano mi permette ancora una parola, e rimando gran parte della sua, dico per fortuna sua, ma perché questa è la sua capacità un po' per disdetta nostra, che magari non siamo degli anglisti così perfetti, pubblica in gran parte gli ultimi articoli in inglese, quindi questa sera è anche una delle rare occasioni in cui avrà modo di presentare la sua ricerca in lingua italiana, perché peraltro in Italia ormai la ricerca prevalentemente si fa in lingua inglese, lo credo, perché l'approccio internazionale di questo tipo, e che d'altra parte permette anche un contatto, per esempio sulla rivista European Review of History, dove ha pubblicato recentissimamente, nel 2019, che siamo a marzo, un articolo che confluisce proprio nella pubblicazione che questa sera in anteprima Stefano Petrungaro ci presenta nelle sue strutture, nei suoi assetti importanti, e che appunto si occupa di questi strange jobs, questi strani lavori, strane occupazioni che si configurano in questa zona di confine, in questa dimensione grigia, che tende a essere sfuggente rispetto alla volontà di irrigimentazione che le forme di potere organizzate, le forme statuali, le istituzioni, tendono a rivolgere verso la pluralità dei soggetti che si sottraggono al tentativo di controllo della macchina pubblica, la macchina statale. Questo un po' per un motivo anche di carattere, diciamo così, di deformazione professionale, mi permetto di vedere, anche se gli storici come mi storgono un po' il naso ogni tanto, dietro questo aleggiare ancora un'antica anima che ogni tanto nella ricerca storiografica del XXI secolo viene evocata, che è quella di Michel Foucault, che rispetto a queste descrizioni, è stato molto criticato l'approccio metodologico storico di Foucault, però credo che alcuni spunti siano molto stimolanti a tutt'oggi, non so se poi Stefano mi darà ragione o torto, io vedo alleggiare ogni tanto sullo sfondo di questi impianti di ricerca, che sono quelli che vanno a toccare quelle forme di rappresentazione, di organizzazione dei poteri che Foucault identificava nelle forme della biopolitica, questa forma di controllo dei corpi anche, che passa attraverso un reticolo che in parte è istituzionale, ma in parte mega istituzionale, cioè si gioca su un altro livello di controllo e di relazione, che in qualche modo si mostra qua e là nelle increspature della storia recente, della storia contemporanea. Chiudo solo ricordando uno studio ormai abbastanza, insomma, di alcuni anni fa, che però è stato importante, pubblicato da Carocci, è una delle edizioni in italiano per i lavori di Stefano Petrungaro, Balcani, una storia di violenza, punto di domanda, 2012, che è un testo in cui si va a indagare una forma di rappresentazione collettiva, il concetto stesso di Balcani. Ci sono alcuni assetti di rappresentazione e di, possiamo dire, quasi di simbolizzazione concettuale di alcuni oggetti storici che vanno sottoposti a verifica storica. Il concetto di Balcani è proprio uno di questi. Quindi, molto felicemente, qui concludo, sono contentissimo che Stefano abbia accettato questa sera il nostro invito. Quest'anno la nostra rassegna, come avete visto, si giocava su un titolo che cercava di essere abbastanza accattivante: Diversità e pensieri divergenti. E questa linea di ricerca di Stefano Petrungaro si incrocia in maniera assolutamente armonica con questa lettura che daremo, da un duplice ordine del discorso: uno rispetto all'oggetto di studio, ma l'altro anche rispetto a questo approccio metodologico, che è importante sottolineare. Oggi ha una sua forte riconoscibilità per la storiografia in Italia. Non a caso Stefano Petrungaro ha la redazione anche di Passato e Presente, che è una delle riviste scientifiche di ricerca storica più importanti a livello internazionale, che venga prodotta anche dalla versione italiana, la casa madre inglese originariamente, naturalmente, e che ci permette di vedere quali sono le fasi forse più fresche della ricerca contemporanea in un settore che apparentemente è un po' di nicchia, nel senso che i centri studi sull'Europa orientale oggi sono abbastanza rari, credo, non so se siete d'accordo, però in realtà ci mostrano uno spaccato, ci danno una chiave di lettura molto importante della loro specificità, della loro peculiarità, ma di qualcosa che costantemente riflette anche la nostra immagine. Negli ultimi anni, noi sappiamo che la questione della nazionalità è tornata ad avere una propria importanza, una propria fisionomia anche politica. Oggi si utilizzano delle parole d'ordine per definire oggetti probabilmente ancora molto soggetti in ambito di categorie del pensiero politico, quale sovranismo, per esempio, no? Ma qui l'incrocio con le vecchie ideologie nazionaliste, vecchie o non troppo vecchie, è tutto da indagare. Oggi questi sono argomenti quindi di straordinario interesse e vivacità, e quindi ancora grazie a tutti per essere intervenuti stasera, soprattutto grazie a Stefano Petrungaro, che ora ci illustrerà il suo lavoro. Non sono io a ringraziare, perché non solo perché una volta tanto non devo andare in giro per il mondo a raccontare della mia ricerca, ma perché potrò tornare a casa comodamente in bicicletta, ma perché queste occasioni di discussione anche extra accademiche sono veramente molto importanti. Quindi ritengo iniziative come queste preziose e sono veramente felice di essere qui. Ringrazio quindi per l'invito, ringrazio Andrea e tutti i co-organizzatori. È anche l'occasione per riprendere in mano questo manoscritto di questo libro, che non è ancora uscito, l'anteprima dipende anche da quello, è però quasi ultimato, bisogna tirare le conclusioni, e allora questo intervento di oggi mi stimola a farlo. Strange Jobs, non per fare l'americano, perché il manoscritto appunto è in inglese, libro uscirà in inglese. Di che si tratta? Il punto di partenza di questo viaggio, un breve viaggio che stiamo per intraprendere noi oggi, ha a che fare con quel lungo processo che negli ultimi due secoli ha portato due esiti principali: la definizione di una norma del lavoro, cioè la distinzione tra lavori ritenuti normali e quelli che invece non erano ritenuti tali, e la definizione di un moderno dovere di lavorare. Cioè, questo ha a che fare con la cosiddetta codificazione del lavoro, che è avvenuta nell'Otto e nel Novecento. Punto, l'ideal tipo era sempre il lavoro industriale. L'idea che il lavoro, quello vero e proprio, è caratterizzato idealmente da un contratto e a tempo pieno, possibilmente a tempo indeterminato e salariato, a dei tempi e dei luoghi definiti, ha una sua regolarità. Questo quindi ha a che fare con l'avanzata del capitalismo industriale, ovviamente prima non esistevano lavori del genere, quindi sostanzialmente con l'Ottocento, ha a che fare con il moderno stato sociale, cui questi lavori erano agganciati, cioè quel sistema di tutele, di assicurazioni contro gli infortuni, contro la malattia, il sistema pensionistico, i sussidi di disoccupazione, più tardi, la maternità, quello che si dice la genesi dello Stato sociale, anche questo nel corso dell'Ottocento, seconda metà, fine Ottocento, inizio Novecento a seconda del paese. Questo ha a che fare anche con il modello diritto del lavoro, che ovviamente deve prendere corpo per ordinare e normare questi rapporti di lavoro e tutto quello che ruota attorno, e la moderna rappresentanza del lavoro, i sindacati e via dicendo. Il lavoro quindi acquista una centralità inedita. Il lavoro è sempre esistito, però cambia il significato del lavoro da periodo a periodo. In questo periodo, a partire da questo periodo, il lavoro diventa prerequisito per godere di determinati diritti, diritti importanti, diritti sociali come quelli di cui ho fatto riferimento prima, persino diritti politici. Insomma, il lavoro diventa il prerequisito necessario per godere di una piena di cittadinanza. Non solo, anche nel campo dei doveri cambiano le cose. Etiche del lavoro ce n'è sempre state, si è sempre dovuto lavorare, no? Fin dall'antichità, fino ai giorni nostri, passando per l'ora e il lavoro medievale, via dicendo. E però si lavora per motivi diversi. A partire da questo periodo non si lavora più soltanto per il padrone o perché Dio me lo suggerisce o mi impone o per sopravvivere, per procacciarsi qualcosa da mangiare. No, si inizia a lavorare per l'emancipazione individuale, addirittura per la realizzazione personale, perché è attraverso il lavoro che ci si realizza. E vabbè, il problema è che non è solo una questione individuale, è collettiva. È a partire da questo periodo che il lavoro viene visto come fondamento di numerosi, diversi, tra l'altro, progetti politici che però convergono attorno alla centralità del lavoro. Il lavoro è necessario per costruire la democrazia, per costruire la libertà, per contribuire attivamente ai progetti di costruzione nazionale e statale, state and nation building, cosiddetti. Basta pensare all'articolo 1 della nostra Costituzione. Ok. Il problema è allora, e chi il lavoro non ce l'ha? Qui sono andato veloce perché voi sapete già che quello che a me interessa, ma forse non lo sapete, forse non l'ho ancora detto, quello che a me interessa non è il lavoro, è il non lavoro. E adesso spiegherò di che si tratta. E quindi, se questo è lo sfondo che ho descritto, molto velocemente, molto grezzamente, ma è lo sfondo, perché quello che io mi chiedo è se questo è lo sfondo e chi il lavoro non ce l'ha, oppure e chi pratica mestieri che non sono però riconosciuti socialmente, legalmente, giuridicamente, economicamente come veri e propri lavori, i lavoretti o altre attività che proprio non vengono riconosciute come lavori. Beh, allora loro come se la vedono? Cosa sono, cittadini di serie B? Ovviamente questa è una questione estremamente urgente e attuale, vista la precarietà che contraddistingue sempre di più i nostri rapporti lavorativi, i rapporti lavorativi della società in cui viviamo. Ma non è un problema solo della contemporaneità. Da un punto di vista storico, il lavoro cosiddetto normale è in realtà l'eccezione. Quello che ho descritto prima, il tempo pieno, il tempo determinato, con la tutela sociale, gli orari e via dicendo. Questo, osservando la storia in un'ottica globale e in un'ottica di lungo periodo, ha caratterizzato una minoranza di lavoratori e ancor meno lavoratrici di solo alcuni paesi dell'Europa occidentale soltanto per alcuni decenni. E tutto il resto sarebbe l'eccezione. E tutto il resto invece sono quella galassia di lavori che non rientrano in questa nozione molto stretta e angusta di lavoro. E allora, tutto quel che rimane fuori da quella definizione normativa di lavoro, io lo chiamo non lavoro. Che cos'è il non lavoro? Beh, istintivamente si potrebbe pensare legittimamente che non lavoro significa tempo libero, significa ozio, non l'ozio degli antichi, l'ozio nostro, che significa forse disoccupazione, volontariato, tra l'altro tutte attività che sono anch'esse state sottoposte a un processo di normativizzazione, di riformulazione normativa nel corso dell'epoca contemporanea, perché ovviamente nel momento in cui definisci il lavoro devi anche definire quel che il lavoro non è, quindi appunto è cambiata l'idea di ozio, si è dovuti decidere, stabilire con decisione, con possibile chiarezza, non si riesce mai, ma ci si prova, che cosa sia la disoccupazione, cosa no, quando nasce, soprattutto perché? Perché se esiste un sussidio di disoccupazione bisogna decidere chi ha il diritto di ottenerlo e chi no. Come sappiamo bene tutti, non basta non avere un lavoro per ottenere il sussidio. Ecco, tutto questo potrebbe significare non lavoro. Questa categoria genera un sacco di equivoci, quindi inizio la relazione chiarendo che cosa intendo per non lavoro. Non intendo questo, intendo qualcos'altro. Il non lavoro che intendo io sono proprio tutta quella infinita serie di lavori che possono essere detti eterodossi, irregolari, atipici, precari, li chiamano i sociologi del lavoro in relazione alla contemporaneità, e va bene, però per l'indagine storica funzionano un po' meno queste categorie, quindi io mi servo di quest'altra. In più, io personalmente, essendo interessato alla marginalità sociale, aggancio il non lavoro, cioè tutti questi lavori non riconosciuti come veri e propri lavori, alla marginalità sociale. Ecco, questo è quello che io intendo per non lavoro. Non mi occupo di riposo, di tempo libero, di hobby, no. Io mi occupo di lavoro, ma di quei lavori che non sono percepiti e riconosciuti come tali. Ecco, forse una visualizzazione attraverso un grafico può aiutare a chiarire il concetto. Da un lato immaginiamoci, sono tutti ideal tipi, il lavoro in un bel quadrato, il lavoro quello vero e proprio, il lavoro normale, appunto l'esempio dell'operaio industriale che gode di un contratto di lavoro formalizzato, luoghi e tempi di lavoro regolamentati, di una certa sicurezza sociale, soprattutto riconosciuto socialmente. Cosa fai? Almeno un tempo, questo è il lavoro. Dall'altro lato immaginiamoci l'opposto, attività criminali molto chiare, per esempio, fa un esempio che dovrebbe funzionare, il trafficante di esseri umani. Beh, questo è completamente illegale e non è riconosciuto socialmente come un'attività legittima per ottenere un reddito, che più o meno è la definizione più grezza che ci sia di lavoro. Ecco, tutto quello che sta in mezzo è l'ellissi del non lavoro, che è quello che interessa a me. Un esempio di lavoro extradomestico è il cenciaio, proprio per fare le cose, dirla chiaramente. Ecco, questo è solo parzialmente riconosciuto in un'ottica sociale, giuridica, economica, cioè viene pagato sì, ma un po' o non molto, con irregolarità, è legale, boh, forse sì, non è un crimine, ma proprio legale non è, insomma, sempre lì al margine, non è certamente formalizzato, è irregolare e soprattutto è in basso nella gerarchia del lavoro. Chiariamolo ancora, perché questa fissazione con questa categoria del non lavoro? Beh, anzitutto si tratta di reagire a quella marginalizzazione teorica e storiografica a cui ha accennato Andrea Felis nella sua bellissima introduzione, come al solito, che affonda le sue radici nel pensiero marziano e nel suo profondo disprezzo e sincera sfiducia nei confronti degli straccioni, il lumpenproletariato. Questa gente primitiva vestita di stracci sulla quale non è bene investire per fare la rivoluzione, loro non sono gli alleati del progresso, loro sono i nemici da combattere, anche perché sono sostanzialmente controrivoluzionari, inaffidabili. Quindi non stupisce che se questa, vado sempre loro giorno con l'accetta, come dice Andrea, non è strano se tutta una serie di studi di ispirazione marxista abbia trascurato questa galassia di studi di attori sociali a favore invece del movimento operaio organizzato e quindi dei sindacati che ha espresso il conflitto sociale, quello lì strutturato. I primi, o meglio le prime a criticare questa impostazione sono state ovviamente le pensatrici femministe, che hanno alzato la mano e hanno fatto presente che se l'intero sistema capitalista si reggeva in piedi è perché c'era un'ampia fetta di lavoro che veniva fatto a casa, il lavoro domestico, che semplicemente non era retribuito, non veniva riconosciuto come tale, come un lavoro. Ulteriori critiche sono state poi sollevate sostanziali dalle discipline umanistiche e sociali, intendo filosofia, sociologia, storia, e poi da autori illuminati come Foucault, che intrecciava tutte queste discipline tra di loro negli anni 70 e 80, e che hanno chiamato in causa appunto la storia dei marginali, della povertà, il disciplinamento sociale, e via dicendo. Questo ha portato in anni più recenti a un rinnovamento anche degli studi sul lavoro, per completare il quadro e non gettare il fango sugli studiosi del lavoro, perché effettivamente ormai da diversi anni ha preso corpo quella che è detta la New Labor History, apposta per distanziarla da quella precedente, e che adotta una nozione del lavoro molto più ampia rispetto a prima, non concentrandosi più soltanto sui lavoratori industriali e i sindacati e il movimento operaio strutturato, bensì appunto su una macro idea di lavoro che include anche le attività a cui facevo riferimento prima. Io mi sforzo di dare il mio contributo a questi sviluppi degli studi su questi temi, e lo applico al mio caso di studi, che è la Jugoslavia tra le due guerre mondiali, e segnatamente in relazione ai seguenti gruppi socioprofessionali che ho scelto per offrire una panoramica sul mondo del non lavoro nel mio caso di studi. Il libro di cui vi sto facendo un bignami avrà un capitolo A, perché è già scritto, che si occupa della prostituzione, delle prostitute, degli elemosinanti, disoccupati, le levatrici, intendo le ostetriche, quelle popolari, un po' magre, e i venditori ambulanti, artisti di strada. Con questo sono più o meno arrivato alla fine della prima parte della relazione. Con il resto della relazione vi dirò qualcosa di due di questi casi socioprofessionali che esamino nella mia ricerca. Qualcosa brevemente sulle prostitute, qualcosa di più sui venditori ambulanti e gli artisti di strada. Ecco che non avevo proprio finito. Forse è bene dire, sempre brevemente, quali sono gli obiettivi generali di una ricerca del genere. Cos'è che l'espressione della simpatia nei confronti dei marginali? Ma parte sì, ma moderata, non tutti. Non è questa la ragione che muove lo studio, e soprattutto non è uno studio che si occupa esclusivamente dei marginali. Cioè, l'idea di fondo, in questo sono in buona compagnia, è che attraverso il prisma dei marginali si osserva in realtà l'intera società. È uno studio che parte dai marginali, ma che parla di tutti noi, perché attraverso le vicende che riguardano i marginali si riesce a mettere maggiormente a fuoco quelli che sono i processi di inclusione e esclusione attivi all'interno di una società, che uno venga escluso o incluso comunque sottoposto a quei meccanismi. Quindi è bene esserne consapevoli. Si tratta quindi di mettere maggiormente in luce le discriminazioni di genere, le forme di discriminamento sociale, quella che è detta l'ingegneria sociale, quindi qualcosa di piuttosto forte. Ingegneria sociale, categoria che è nata in relazione alle dittature, ma che io invece mi sforzo di applicare anche ad altri regimi, perché l'ingegneria sociale di nuovo riguarda tutti noi, riguarda anche noi adesso, e riguardava anche le società precedenti a quelle e diverse da quella nazista sovietica, che sono quelle dove principalmente è applicata alla nozione di ingegneria sociale. In realtà in ogni società ci sono politiche che regolano la costruzione del corpo sociale e si sforzano di disciplinarlo. Tutto questo sarebbe fino a questo punto piuttosto in linea con gli studi di ispirazione foucaultiana, ovviamente ha a che fare con il disciplinamento sociale e la biopolitica. Quindi io mi sforzo di aggiungere però anche una prospettiva che guarda questi eventi dal basso, cioè non solo dall'alto, quindi quello che l'elite, i governanti, i ceti al potere hanno concepito e poi messo in pratica, ma cerco di guardare a questi fenomeni anche dal basso, dal punto di vista dei marginali stessi. E quello che emerge è interessante, perché oltre alle azioni incontriamo anche le reazioni e forme di resistenza, come vedrete nel corso della relazione, piuttosto significative. Quindi il libro non è una storia, triste storia di sola repressione dei marginali. Il libro racconterà anche storie di protesta e di reazione, ponendo l'enfasi su quella che viene detta la agency, cioè la capacità di agire di questi soggetti. Anche i soggetti subalterni hanno la loro agency, la mettono in campo e il risultato sono interessanti negoziazioni, di cui allora vi dirò qualcosa. Il primo caso, quindi socioprofessionale, ha a che fare con la prostituzione. Guardate che foto splendide che si trova, questo è uno studio sociologico degli anni 30. Qui siamo in Serbia. Ecco, appunto, per ricordare dove siamo, più o meno, ho detto prima Jugoslavia, tra le due guerre mondiali, Jugoslavia ce ne sono state due, la prima viene fondata nel 1918, è una monarchia e accorpa territori con eredità storiche anche molto differenti, post-imperiali ma di imperi differenti, post-asburgiche, post-ottomane, e entità statali come il Principato, poi il Regno di Serbia, che al momento della Costituzione di Jugoslavia era già autonomo, come pure il Regno di Montenegro. Ora, quello che a noi interessa, noi dobbiamo parlare della prostituzione, è che in tutti questi territori, nel corso della seconda metà dell'Ottocento, si nota la tendenza a stabilire regimi regolamentaristi per gestire la prostituzione. Cos'è il regolamentarismo? È il sistema dei bordelli, che sicuramente conoscete tutti, e cioè le autorità pubbliche rilasciano delle licenze in modo da monitorare e controllare i bordelli, le prostitute devono essere registrate presso le autorità, cioè all'epoca di polizia, e sono tenute a dei controlli periodici, medici, obbligatori, no? Più o meno. Ecco, la prima Jugoslavia eredita questi sistemi, quasi ovunque, eccetto Macedonia e Montenegro, quasi ovunque già c'erano, li perfeziona nella prima metà della sua esistenza, nella prima decade. La prima decade quindi contraddistinta da una netta tendenza regolazionista. Dopodiché succede una svolta, si inaugura un nuovo regime proibizionista. Si aboliscono tutti i bordelli, si chiudono. Non solo, è un proibizionismo di tipo radicale, esistono varie versioni. Questo è radicale, cioè non solo chiude i bordelli, ma vieta la prostituzione in toto. La prostituzione diventa un crimine. Quindi quello che era un mestiere sostanzialmente legale diventa ora un crimine. Perché? Questa è la domanda sempre dello storico, oltre al quando e al dove, e vabbè, per iniziare a imbastire la discussione, la vera domanda è sempre questa: perché? E in breve le risposte sono queste. La prima argomentazione che viene fornita dagli attori in gioco, e sono sostanzialmente medici che riescono a gestire l'intera faccenda, siedono anche in Parlamento, quindi fanno pratica un'attività di lobbying sfrenata e scrivono le nuove leggi in materia, beh, secondo loro ci sono anzitutto motivazioni mediche che impongono di rivedere il sistema per cercare di contenere quella che era diventata una piaga dell'epoca, cioè una diffusione di massa delle malattie venere. Quindi lotta contro le malattie venere, ma anche contro la prostituzione, perché queste argomentazioni non sono mai esclusivamente scientifiche e solamente mediche. Tutte le discussioni svolte nel corso dei congressi dei medici che ho studiato approfonditamente, come pure i dibattiti in Parlamento e via dicendo, sono ovviamente, come è normale che sia, intrise di valori morali, culturali, morali moralisti, e che ritengono quindi non soltanto la prostituzione un problema di tipo medico-sanitario, diciamo, bensì un vero problema sociale di tipo morale. Cioè, la prostituzione, le prostitute non soltanto ammorbano la nostra popolazione, ma diffondono l'immoralità. È per questo che vanno chiusi i bordelli, ma va anche vietata la prostituzione. Ora, tutto questo si lega quindi a dei discorsi che sono internazionali e transnazionali, che riguardano tutta l'Europa dell'epoca in forme diverse, in questo caso i modelli di riferimento erano la Scandinavia e la Germania, forme di sviluppi legati alla cosiddetta igiene sociale, che trasforma la prostituzione in una vera e propria questione eugenetica e biopolitica. Vuol dire che andare con le prostitute non è una questione tua personale, non è un problema tuo, ti piace o non ti piace, è un problema o non è un problema, è una questione nostra e collettiva. Questo significa che il problema, la questione diventa collettiva, politica e segnatamente biopolitica, perché se tu alimenti la diffusione, per esempio, delle malattie venere, e se tu alimenti l'immoralità, non è più solo un problema tuo, è un problema di tutti noi. Quindi capite che la questione non è per nulla marginale e inizia infatti a occupare il centro delle preoccupazioni dell'elite jugoslava, come di tutta Europa all'epoca. E queste iniziative allora hanno come obiettivo sì la lotta alle malattie venere, che sicuramente è un problema gravissimo, ma hanno soprattutto come obiettivo di lungo periodo la promozione di una nazione forte, in salute, moderna e competitiva. Cioè, si trattava di prendersi cura del corpo delle donne, che aveva una precisa funzione sociale nella società, che era quella di mettere al mondo dei figli sani, di mettere al mondo dei figli, che questi figli fossero sani, perché certe malattie venere si possono anche ereditare, quindi contrarre, diciamo, senza rapporti sessuali, la sifilide, per esempio, mettere al mondo figli, che questi figli fossero sani, e educarli in maniera morigerata. Questo è il compito delle donne, non altro. E allora, secondo l'ottica, sto riferendo, non si vedono le virgolette, ma spero si capiscano. Ora, la domanda, allora, andiamo un po' più in profondità. Allora, queste prostitute erano sottoposte a dei controlli obbligatori. Sembra semplice, le prostitute sono tenute a sottoporsi a dei controlli, va bene, ma chi era concretamente considerata una prostituta, oltre a quelle attive nei bordelli, che ovviamente erano iscritte nei registri della polizia, ma tutte le altre? Sappiamo che esistono mille forme di prostituzione in strada, prostituzione clandestina, semi-prostituzione. E quella lì, la foto delle prostitute portate di peso dal medico. Per chi l'esame medico era obbligatorio? Oh, le risposte sono tante, dibattiti di ogni tipo. Dico brevemente che in un documento che dà delle linee guida, proviene da Sarajevo, di diffuso alle unità territoriali, ai dipartimenti sanitari dell'intera regione, si definisce la prostituta come colei che è conosciuta come tale. Capite, è un criterio piuttosto lasco e che apre margine per decisioni estremamente arbitrarie. Per chiarire e perfezionare il tiro, si chiarisce in un altro documento che non solo le artiste, sulle quali ovviamente non si discute, ma da sé, ma senza dubbio anche le bariste, le cameriere d'albergo, le cassiere, delle quali, attenzione, con le percentuali, una scientificità inventata, una fantasiosa, se non il 100%, facciamo l'89-90, sono contrasposti tutti i clandestini. Queste sono le direttive. Cosa vuol dire? Ma vuol dire appunto quello, che tutti i comportamenti, tutti gli stili di vita e i comportamenti sessuali, anche solo poco, marginalmente devianti da quello che doveva essere il comportamento normativo della donna, che è quello che avevo scritto prima, la donna normale, la donna giusta, il modo giusto di essere donna al mondo, ecco, tutte le altre in sostanza andavano condannate, erano sospette ed erano comportamenti che andavano repressi. Cosa ci porta a dire questo? Chiariscono, perché questi mestieri fungono per lo più solo da maschera, questa idea della maschera, che è anche sottolineato nell'originale, non l'ho enfatizzato io, è fenomenale, sotto la quale esercitano indisturbate la loro vera professione, la prostituzione. Quindi la maschera, bisogna andare alla caccia di queste maschere, bisogna levare questa maschera nei confronti di questo nemico interno, questa vera colloquinta colonna che vive nella nostra società e che diffonde la malattia e l'immoralità. Allora, tiriamo già le conclusioni parziali su questo primo caso, un brevissimo caso di studi. Che cosa si può imparare da questa vicenda? Beh, anzitutto che i confini del non lavoro, dell'ISSE e dei singoli non lavoro, lavori che si possono prendere in esame, sono ovviamente fluidi. È difficile in realtà, e forse anche impossibile, definirlo in maniera chiara, non lavoro. Cioè in questo caso un'ampia gamma di comportamenti sessuali e sociali che possono essere considerati prostituzione. E allora il disciplinamento della prostituzione, perché succede questo? Perché il disciplinamento della prostituzione, di quella che è concepita come la donna depravata, quella che ha perso la retta via, in inglese l'espressione è diffusissima a livello internazionale, fallen woman, la donna che è caduta in disgrazia, ecco, quella che va riportata sulla retta via, che va salvata. Ecco, il disciplinamento della prostituzione, del sex work, di quel work, precisamente del sex work, è in realtà disciplinamento del sex o della sexuality. In inglese funziona un po' meglio il gioco di parole, infatti non ho neanche scritto, ma comunque il disciplinamento della prostituzione in realtà è parte del disciplinamento della società intera. Quando io dico che cosa non si deve fare, ho detto anche che cosa si deve fare. Ho tracciato un confine tra il legittimo e l'illegittimo, tra il giusto e lo sbagliato. Ed è questo confine che a me interessa. E con la mia ricerca io voglio rendere visibile questo confine, come è stato costruito e come è cambiato nel tempo. Ecco, questo confine cambia appunto nel tempo. E questa vicenda del mestiere della prostituta, nel mio caso in esame, per esempio, lo dimostra in maniera molto chiara, perché all'inizio della vicenda si trovava nell'ISSE del lavoro, del non lavoro, per riprendere lo schema che abbiamo mostrato prima, e abbastanza vicino quasi al lavoro, nel senso che era un'attività legale, precisamente era tollerata, quindi diciamo non era illegale, ecco, comunque non era perseguita. Ecco che nel corso di pochi anni transita verso il cerchio delle attività criminali, viene criminalizzata. Ecco come le cose possono cambiare. Non solo il lavoro è un costrutto, il non lavoro è quindi un costrutto sociale. Ricordiamoci sempre che anche il crimine lo è. Sono le società che decidono che cosa è criminale e cosa no. E certe attività che fino a un certo momento erano legittime e permesse, può succedere che da un momento all'altro non lo siano più e che come conseguenza abbiano l'arresto e la deportazione, come alcuni sviluppi nel nostro paese ci ricordano chiaramente. Secondo caso, i lavoratori ambulanti. Qui è meglio che mi appoggio agli appunti, perché ho promesso 40 minuti e devono essere 40. Infatti, pensiamo a prendere fuori il giusto. In questo caso, nel caso dei lavoratori ambulanti, la storia inizia con un attacco al mestiere. Cioè vengono introdotte una serie di misure legislative per rendere il mestiere sostanzialmente impraticabile. In certi casi, come nel caso della Vojvodina nel nord della Serbia, viene addirittura introdotto nel 1921 il divieto. Basta, non li vogliamo più questi ambulanti. Perché? Motivazioni classiche. Non sono altro che un metodo per la diffusione di notizie false e allarmanti. Quindi un argomento legato all'ordine pubblico, tenete presente che siamo ancora in un clima post-bellico, appena finita la prima guerra mondiale, è praticato per lo più da non serbi, anzitutto ebrei, ungheresi e tedeschi, quindi c'è un argomento di sicurezza che ha a che fare con la sicurezza nazionale, è poi superfluo dal punto di vista economico, ci sono mai negozi, non c'è bisogno, argomento economico, ed è spesso una truffa, perché gli ambulanti raggirano l'ingegno e i contadini, argomento etico. Bene, possiamo concludere quindi che la storia di questo gruppo socioprofessionale è una storia di semplice repressione dall'alto? In realtà no, perché subito, già l'anno successivo, iniziano ad essere introdotte le eccezioni. Perché a ripensarci, c'è un settore di produzione cosiddetta industria domestica, oggetti fatti in casa, di Vojvodina, che è fiorente e che questi oggetti vengono però venduti sempre attraverso il commercio ambulante e che non si può affossare in questa maniera, intere comunità rimarrebbero senza fonte d'entrata e si introduce la prima eccezione. Poi ci sono queste spugne, i coralli della Dalmazia, che in Vojvodina si vendono bene, praticamente in Ungheria, non danneggiano niente, e la vai con un'altra eccezione. E poi ci sono questi tappeti erzegovesi, cilimi di fattura ottomana, così carini, anche quelli in Dalmazia ci stanno bene. Eccezione dopo eccezione inizia a sbriciolarsi. L'intero contesto legale, che era partito con l'idea di appunto eliminare questa attività, perché da un lato effettivamente vi sono posizioni ufficiali ostili, molto chiaramente ostili. Il ministro dell'economia dice basta, questa attività è primitiva ed è antieconomica, deve sparire. E però al contempo vi sono molte iniziative di sostegno popolari, interi paesi che si muovono a sostenere i propri ambulanti, ma anche istituzionali, sindaci, governatori che scrivono petizioni, lettere, si attivano per affinché si rivedano queste leggi. Allora possiamo derivare da questa ricostruzione che a volte i processi di marginalizzazione di certe attività lavorative non procedono in maniera lineare, come in questo caso, ma sono in realtà fortemente contestati, e a volte lo sono dai marginali stessi. Questa è una cosa interessante. Vi sono una serie di mobilitazioni dal basso. Qui siamo in un paesino nel nord-est della Croazia, si chiama Giurmanec, non lo conosce nessuno, non ha importanza. Il punto è che a un certo punto entrano in municipio, nell'ufficio del sindaco, battendo i pugni sulla scrivania del sindaco. Non si può andare avanti così, bisogna fare qualcosa. E sono in 200. Questa è la petizione che scrivono con marche da bollo e tutto. I leader della protesta sono anche alfabetizzati, ma dietro ci sono firme degli altri. E comunque, quindi mobilitazione dal basso, ecco il proteste cui avevo fatto cenno proprio all'inizio della presentazione. È un attivismo quindi organizzato. Questa categoria socioprofessionale si organizza istituzionalmente, a un certo punto fonda una propria associazione, prima locale, poi nazionale. Questo è l'organo addirittura, il Marchand Ambulant, addirittura col sottotitolo in francese, una raffinatezza, stiamo parlando di commercianti ambulanti, e l'associazione si chiama Lega degli Ambulanti, serbi, croati, sloveni, prima si è da Zagreb, poi si sposta nella capitale dello Stato, che è a Belgrado, e l'attività di lobbying funziona, perché riesce a un certo punto ad accreditarsi come referente istituzionale. Cioè, questi vanno a parlare con i ministri, chiedono udienza ai ministri, i ministri li accolgono e li ascoltano, finché diventano l'organo deputato a rilasciare documenti di identificazione per i vari ambulanti da esibire alla polizia. Cioè un vero ruolo di mediazione istituzionale tra la corporazione e le autorità pubbliche. Non solo, lavorano sull'immagine pubblica ovviamente, perché devono difendere anche la legittimità del proprio mestiere, che è un mestiere nobile, dicono loro, non sono spie, e non è per nulla antieconomico, perché è meglio che lo portino loro lo spazio, gli oggetti per la casa, al contadino che si trova in un paesino isolato, le infrastrutture sono ancora quelle che sono, piuttosto che costringere il contadino a recarsi in città e perdere così ore preziose di lavoro. E questo, tra l'altro, gli studi sul commercio ambulante più recenti hanno dimostrato che effettivamente quello della antieconomicità e della natura primitiva di questo mestiere e della assoluta incompatibilità col capitalismo è tutto da smontare. In certe situazioni può tornare utile che passi la routine se tu abiti in un posto per esempio isolato, non solo l'esercizio l'attività di lobbying riescono a far sì che venga rivista la legge e introdotta una nuova legge che riconosce ufficialmente il commercio ambulante e la Lega come organo di rappresentanza ufficiale. La controparte del vero ambulante, l'altro più prossimo, dicono i leader, sono invece gli ambulanti straccioni, gli irregolari. È contro di loro che si deve, nei confronti di quelli che si deve rivolgere l'attenzione delle autorità pubbliche e la loro stessa. Quindi prendono le distanze, si crea questa classica gerarchia interna all'interno del mondo lavoro, dove ci si ricava il proprio posto, la propria legittimità, distanziandosi da chi sta sotto. Ovviamente l'attività quindi è duplice: è a favore dell'accreditamento nei confronti delle istituzioni e contro i marginali, gli ambulanti più regolari, che qui sì vendono chincaglieria e truffano e via dicendo. Quindi sono loro invece, sono i veri ambulanti, sono quelli con la tessera di riconoscimento e hanno la loro etica del lavoro. Quindi questa storia si può dire che è iniziata con un divieto e finisce con il riconoscimento della loro legittimità. In qualche modo questo mestiere si sposta dall'ellisse al quadrato, per riprendere lo schema di prima. sempre in strada, per questo che stanno nello stesso capitolo, e sempre in movimento, lavorano anche gli artisti di strada. Qui anche c'è, cioè, è un sottogruppo con la sua gerarchia interna, nel senso che si può pensare, fanno parte della grande famiglia degli artisti di strada diversi attori, ci sono i grandi circhi, per esempio, ah beh, questi sono benvenuti, quando arrivano i giornali scrivono viva l'altro circo, e tutti sono, non sono proprio tutti felici dell'elite, un'idea diversa di cosa dovrebbe essere la cultura, ma comunque ottengono i permessi, fanno il loro lavoro. In una posizione intermedia si trovano invece i divertimenti da fiera, tipo i caroselli, il tiro al bersaglio, le altalene. Questi fanno un po' perdere il tempo, chi invece dovrebbe lavorare, però in qualche modo, in maniera, riescono a superare l'esame, ottengono anche loro i permessi di lavoro e esercitano la propria attività. Quelli che stanno sotto alla gerarchia sociale e alla gerarchia del lavoro sono proprio i girovaghi, quindi i musicisti, i saltimbanchi, i clown e i maghi. Anche ufficialmente questa attività era sostanzialmente percepita e a volte descritta come una forma di accattonaggio mascherata. Vedete che sul permesso di lavoro di Josip c'è scritto che è autorizzato a raccogliere offerte suonando l'organetto, meglio si poi una un braccio solo, classica attività di chi ha un handicap fisico di questo tipo, e per questo anche gli veniva concessa la licenza. Il punto è che già il termine è significativo, perché milodare significa sia offerta, ma significa anche limosina. Anzi, siccome l'elemosina e l'accattonaggio era vietato, in sostanza lo si autorizza in questa maniera a chiedere l'elemosina. E questa era l'idea, questi sono degli accattoni, sono degli elemosinanti, non sanno anche un mestiere questo. E allora, vista questa ostilità di fondo e il fatto che quindi queste attività venivano, erano collocate ai veri margini della sfera del non lavoro, però ancora non era stata sospinta al di fuori dell'ellisse, non era ancora diventata un'attività criminale, cioè illegale, intendo, era ancora all'interno dell'ellisse del non lavoro, però veramente ai margini. Ecco, viene da chiedersi quali fossero poi le dinamiche sul campo con questa storia dei permessi di lavoro e via dicendo. Ecco, allora permettetevi di presentarvi una mia ormai vecchia conoscenza, perché la ricerca è iniziata diversi anni fa, Victor Grüne. Ecco, per la fine della redazione ho tutti gli effetti speciali che aiutano sempre con un po' stanco con l'attenzione. Allora, questo è il libretto di lavoro di Victor, che così possiamo virtualmente aprire. Appunto, e sulla prima pagina è specificato il tipo preciso di attività per il quale l'artista di strada aveva ottenuto permesso. Nel caso di Victor è scritto che è autorizzato ad allestire sul territorio del distretto di Zagabria, esclusa la città non si vuole mai, ovviamente, semmai in periferia e oltre, i seguenti giochi, spettacoli di magia. Victor è un mago, un vero e proprio mago. Volete vedere il suo aspetto? Eccolo qua. Effettivamente, no? Sì, presto. Devono essere stati dei belli spettacoli. Ora, la dinamica era la seguente: ottenuto il libretto di lavoro, quindi questa licenza in sostanza, nel momento in cui l'artista di strada si recava in una località, aveva bisogno di un ulteriore permesso di residenza di lavoro rilasciato dalle autorità di polizia locali. Quindi sfogliando questi libretti di lavoro, se si ha fortuna di trovarli e di trovarli utilizzati, a me è capitata questa fortuna in archivio, si può vedere questa collezione di timbri. Eccola qua, c'è il timbro con la data, la località e anche, questo è quello che a me particolarmente interessava, la durata del permesso. Beh, intanto sfogliamo la collezione di timbri, pagina dopo pagina, spostamento dopo spostamento. Sfogliando il libro, in qualche maniera possiamo accompagnare Victor nel suo viaggio, nella sua quotidianità, nei suoi spostamenti all'interno del territorio, spostamenti dovuti al suo lavoro. E allora l'analisi di questa successione di timbri ci permette di capire nel concreto come funzionasse il sistema legislativo, per passare quindi diciamo dalla teoria, dalla pagina della legge alla sua concreta applicazione. Ebbene, quello che emerge dall'analisi è che in buona sostanza potevano fermarsi questi artisti di strada, ho esaminato anche i libretti di altri, non più di 2 giorni. Come vedete, in certi casi 7, ma perché l'intera periferia è poi la città, la capitale, altrimenti, capitale insomma, sì, della regione, non dello Stato, altrimenti nelle altre località sono dai 2 al massimo 3 giorni. E allora qual è la conclusione? Che, scusate, ho cercato anche di visualizzare questi movimenti. Questo è Victor che si muove. Ovviamente Victor continua a muoversi, questa è la prima, e non solo perché è un artista girovago e ovviamente deve spostarsi da un luogo all'altro, ma anche perché se il permesso è per massimo 2 giorni, beh, ovviamente deve slogare presto, e questo è l'obiettivo della misura. La visualizzazione ci aiuta a capire che più o meno si muoveva lì, nei dintorni di dove risiedeva, anche perché in una prima fase ha il permesso solo per quella, quel distretto lì, la mappa era fatta troppo piccola, ma tanto è solo per avere un'idea, perché successivamente ottiene permesso anche per altre regioni, e quindi va soprattutto l'inverno a svernare sulla costa. Quindi questo lo dico in maniera ironica, ma ovviamente sono infiniti i fattori che condizionano le decisioni di un individuo, non possiamo saperlo, dedurlo, ricostruire tutto dal suo libretto di lavoro. Avrà trovato un passaggio, si sarà innamorato di qualcuno, non ci sarà stato un pubblico più interessante o più disposto a pagare, non lo sappiamo. Quello che però sappiamo è che poteva stare in ogni posto massimo 2 giorni, altrimenti, e dopodiché doveva andare avanti. E allora, le conclusioni cui ci porta questa breve considerazione è che il sistema di controllo pensato per imbrigliare la mobilità di soggetti che in quanto continuamente in movimento sono sempre sospetti e fastidiosi, finiva con l'effetto paradossale di promuoverla ulteriormente, quella sgradita mobilità, perché gli stati moderni, minimo dal 700 in poi, preferiscono la stanzialità dei cittadini, perché è più facile tenerli sotto controllo, è più facile per il fisco riscuotere le tasse, per l'esercito reclutare gli uomini, e dice, insomma, un controllo classico. Chi invece è continuamente in movimento sfugge a quel controllo e quindi non è mai ben visto dalle autorità. Questi soggetti, figuriamoci un girovago del genere, sono soggetti tendenzialmente sospettosi per le autorità, ed è proprio per quello che sono stati pensati questa serie di dispositivi, di meccanismi, di sistemi amministrativi, per in qualche maniera imbrigliare o perlomeno controllare, tenere sotto controllo quella quei continui movimenti. Certo è che l'effetto è più o meno l'opposto. Quelli che apparentemente sono permessi per rimanere, in verità obbligavano ad andarsene, questa è la verità. E questo ha molta affinità con le prassi nei confronti dei vagabondi, degli elemosinanti, a proposito. Cioè quello di, invece che risolvere il problema lì dove un problema effettivamente c'è, nel caso della povertà, oppure di un problema ritenuto tale, nel caso dell'artista girovago, ecco, invece che affrontare il problema, la soluzione è quella di scaricarlo nel paese a fianco più vicino e via dicendo. Pratica anche questa assai diffusa, per nulla esclusiva della Jugoslavia tedesca. In sostanza, questa è la conclusione, che gli artisti di strada erano viste come ovviamente persone non grandi. E quindi arriviamo a conclusioni generali, e cioè che questi 3 casi, 2+1, che vi ho mostrato, li ho scelti anche perché sono esperienze radicalmente diverse e ci mostrano, quindi ci dicono qualcosa dell'estrema eterogeneità del mondo del non lavoro. Anche le strategie messe in campo sono molto diverse. I venditori ambulanti, quelli che sono maggiormente organizzati, sono riusciti a porre una resistenza strutturata a certe difficoltà provenienti dall'alto, e per questo sono addirittura riusciti a risalire la gerarchia del lavoro. Gli artisti di strada invece non si sono organizzati, ma in qualche modo hanno continuato ad esistere, perché Victor è lì che gira per i vari paesini della Croazia. Certo, una resistenza più informale. Le prostitute invece, che non sono riuscite a organizzarsi in nessun modo, sono un caso di esito criminalizzante, diciamo, della mestiere, che viene semplicemente escluso dalla sfera del non lavoro. Quindi, come si vede, c'è una certa dinamicità e esiti anche molto diversi. Questo ci ricorda che disciplinare i margini del lavoro significa normare l'intera società, quindi i confini del non lavoro cambiano nel tempo, e quando si mette mano ai confini del lavoro e quindi anche del non lavoro, l'obiettivo ultimo è quello di mettere mano all'intera società. Ecco perché per me è interessante, come dicevo all'inizio, a me interessano senz'altro le prostitute, i marginali, gli elemosinanti, i disoccupati, per ragioni anche personali, ma la valenza di questi tipo di studi, come anche il mio, è che offrono un contributo per ragionare sull'intera società. L'abbiamo visto nel caso della prostituzione, quando definire che cos'è un comportamento da prostituta significava definire qual è il giusto comportamento da tenere, tracciare appunto quel limite tra lecito e illecito, legittimo e illegittimo. E questo a partire dai margini del lavoro in sé. L'altra conclusione è che i marginali non erano per nulla marginali agli occhi delle elite dell'epoca: femministe, dottori, poliziotti, giuristi, politici, riformisti, sociologi, tutti si occupavano costantemente di tutti questi vari gruppi. Io ne ho scelti alcuni, secondo me paradigmatici, ovviamente la lista è infinita, quindi occupano un ruolo centrale nella storia di questo paese che io indago. Una storia interamente da ricostruire, non c'è quasi una riga scritta su questo, per altri paesi va un po' meglio, ma è comunque un capitolo importante per capire la storia di questo paese, di quel paese. E non solo, c'è questa attenzione da parte dei ceti di diversi attori sociali, come quelli che ho elencato prima, questa attenzione ha prodotto nuove culture politiche, che io non ho neanche menzionato, ma insomma che governavano questo tipo di azioni di interventismo statale, hanno prodotto discorsi, pratiche di assistenza anche, perché non vi ho parlato dei disoccupati, cioè lì sarebbe emerso maggiormente, per esempio, queste pratiche, volendo fornire un quadro completo, non hanno solo prodotto dispositivi di repressione, ma anche forme di assistenza. Ad ogni modo mostrano l'attenzione e l'impegno appunto delle elite con queste questioni, con questi attori. Hanno prodotto istituzioni, hanno prodotto soprattutto gerarchie sociali: chi sta sopra, chi sta sotto, chi è più importante, chi è meno importante, chi bisogna promuovere e aiutare, chi bisogna invece allontanare o mettere in gattabuia. E tutto questo al fine di aiutare, appunto, monitorare o punire i lavoratori marginali. Questo per il fatto che tutto questo ragionamento ci ricorda quindi che la povertà, come la marginalità, la devianza, le disuguaglianze sociali, non esistono in natura, sono prodotte dalle società. Sono le società che decidono cosa è deviante e cosa no. Sono le società che producono le disuguaglianze sociali e anche la marginalità. E penso che questi esempi ce lo dicano in maniera chiara, e penso sia utile averlo alla fine in mente quando anche parliamo alla contemporaneità, quando riflettiamo sull'esperienza della società in cui viviamo. Quindi la povertà e le disuguaglianze non esistono in natura, sono prodotti sociali, per questo sono mutevoli e se ne possono ricostruire le dinamiche che li hanno prodotti. E tutto questo mette ulteriormente in luce, andandomi ad aggiungere ad una serie di studi, su quelle che sono dette le ambivalenze della modernità. Modernità che quindi ha non solo aspetti positivi, diciamo, ma delle ambiguità di fondo con ricadute terrificanti, e di quelli che sono detti progetti appunto biopolitici nella Jugoslavia della guerra mondiale, che è quella che ho studiato io, ma e con questa considerazione concludo, molto di quello che ho detto, e andando alla sostanza, tutto non è una storia esclusivamente jugoslava, Jugoslava è una storia europea e che riguarda quindi noi tutti in maniera indiretta, in quanto abitiamo in questo continente, e per certi versi persino in maniera diretta. Grazie dell'attenzione. Grazie innanzitutto della bella e vincente relazione, anche degli effetti speciali che sono stati molto graditi, soprattutto in relazione agli itinerari credibili di Victor che si muove in questo scenario jugoslavo, appunto, dei primi anni 30, che ci ha permesso di fare questa lunga carrellata. Io ricordo che tempo fa mi parlavi anche di ammaestratori di orsi che ci avevano sotto categorie particolarmente originali, tra virgolette, che ovviamente rientravano nella vastissima casistica e queste nuove tassonomie sociali che si vengono poi a individuare e istituire dentro a questo percorso che così brillantemente poi ci è stato mostrato questa sera. Io ti porrei una primissima questione, dato che riposi un attimo, intanto ci facciamo una riflessione un po' annunciata, che magari così una sorta di tentativo di sintesi, ma è quello di questa bella relazione che è interessato particolarmente, ovviamente, oltre che nello specifico i casi individuali, eccetera, che chiamano in causa questa volontà, come tu l'hai sottolineato, anche di codificazione, canonizzazione di comportamenti, no? Che è implicito nella costruzione stessa della categoria del marginale, quindi nel momento in cui vado a identificare il sistema dei divieti, in maniera del tutto correlata e simmetrica vado a istituire una serie di vincoli, di obblighi sociali, di direzione entro i quali vado a individuare comportamenti corretti, no? Quindi con questa specularità che ha ovviamente un vantaggio, forse quello che magari è interessante porre anche in primo piano. Questo tu l'hai citato in maniera molto netta, fa parte, fa parte di questo momento di costruzione. Ecco, questo momento di costruzione dello Stato nazionale, che nel caso jugoslavo poi evidentemente ha una sua specificità, no? Tu lo citavi in relazione all'esempio che facevi degli editori ambulanti, quando hai cominciato a declinare una casistica della categoria degli ambulanti che veniva identificata con dei caratteri di estraneità rispetto al territorio, no? Sono quelli che non sono territoriali, sono i macedoni che vanno a vendere il tappeto, gli azegovesi che cosa ci fanno nella zona croata o viceversa, o appunto l'ambulante ebreo, no? Quando tu parlavi all'inizio, proprio all'inizio della tua riflessione della categoria dei cenciaioli, no? Veniva in mente quasi istintivamente che una collocazione che ha avuto tipicamente, per esempio, l'ebraismo anche nel contesto italiano tra l'età moderna e l'età contemporanea era quello proprio di avere una fisionomia legata al recupero degli stracci, delle pezze e poi della loro rivendita dentro un mercato popolare, eccetera, con una sorta di stigma sociale che però automaticamente veniva anche a calare su quel tipo di professione, no? Quindi addirittura dando origine ai cognomi di alcune delle famiglie ebraiche, come i Pizzetti, delle prese, deriva dalla pezza proprio, no? È lo straccio che viene identificato e avanti così, insomma. Quindi è qualcosa che riecheggia in diversi momenti nella storia della costruzione delle comunità statuali nazionali in Europa, però ovviamente il laboratorio jugoslavo, tra virgolette, tra le due guerre, appare di particolare interesse perché lì questo carico sembra in qualche modo connotarsi forse in maniera più evidente rispetto ad altri contesti, ad altri luoghi, no? Anche d'Europa, che diciamo, vivono in maniera meno conflittuale, interna, dialettica, anche in maniera complicata, la compresenza di diverse comunità che o sul piano linguistico o sul piano linguistico religioso, oppure anche solo sul piano confessionale, di tradizione, di derivazione, in qualche modo vengono a trovarsi distinte ma accomunate diciamo all'interno dei confini dello Stato nazionale. Ecco, io ti chiederei proprio questo: come tu hai citato i medici, per esempio, no? Che svolgono questa forte funzione, ho usato una parola molto forte, ho usato la parola eugenetica, no? Ecco, lì io ti chiederei se tu hai trovato in questo spazio di ricerca diciamo delle ulteriori conferme di di un impianto in cui la caratterizzazione della, chiamiamola così, della devianza nell'ambito della collocazione del lavoro considerato non sociale, perché poi quasi tutto questo si può, sembrerebbe potersi raccordare in una visione che è quella di un lavoro che si sottrae a una funzione positiva nella società, si è caratterizzato, ha trovato degli elementi, dei pandan anche con la configurazione diciamo culturale, in un'accezione che sarebbe l'accezione più neutrale, ma che in quel contesto poteva assumere forse fisionomie differenti, no? Lo hai citato un po' di sfuggita un aspetto che a me incuriosiva molto, che era quello dei venditori ambulanti che rivendicano un carattere a un certo punto, la loro rivendicazione, dentro la quale poi loro stessi vanno a costruire una sorta di subordinazione interna di altre sottocategorie, no? Che c'è anche questo un correlato, no? Costruiscono una loro istituzionalizzazione da un lato, e il prezzo è la marginalizzazione di un settore interno, no? Non sono più ambulanti, sono gli straccioni, no? Sono quelli che non hanno. Ecco, quando rivendicano il loro profilo, anche rispetto al ruolo delle campagne, sembra di sentire in sottofondo un suono di strumenti tradizionali, no? di suono del paese, no? In cui allora la dimensione di rivendicare un carattere positivo, tra virgolette, al proprio profilo, sembra anche essere collegato al fatto che in qualche modo si collega al mondo rurale e che non l'ambulante rivendica questa sua visione, l'ambulante buono, non con lo straccione, eccetera, rivendica la propria capacità di raccordarsi alla tradizione territoriale e di forse, però dimmi se è una mia interpretazione, una lettura troppo strumentale, impedire al buon contadino di andare a corrompersi all'interno dello spazio urbano, perché così rimane ben legato e quindi la sua funzione viene in qualche modo a essere di conservazione di un assetto, vero o non vero, cioè i flussi, anche lì le mobilità, probabilmente anche nel mercato del lavoro, anche in un contesto come quello della complessità della rete jugoslava degli anni 20, anni 30, probabilmente faceva già provocare dei flussi di mobilitazione dalle campagne verso la città, così com'è il carattere costante di tutti i processi di industrializzazione, insomma, no? Per cui, ecco, quindi questa rivendicazione in qualche modo, se nei tuoi studi l'hai trovata, avvicinarsi anche a queste soglie, chiamiamolo, di ideologizzazione di questi ruoli. Ecco, io ti porrei questa intanto come questione. Adesso io non so se vogliamo raccogliere magari anche altre sollecitazioni dal pubblico, così le raccogliamo e le mettiamo dopo. Preferisco farle dopo. Sicuro, io ho già parlato tanto, adesso ho piacere di ascoltare. Sì, sì. No, dopo che lei ha risposto al... Va bene. Allora, grazie mille Andrea per queste sollecitazioni. Una mi è particolarmente cara, e cioè quella della la questione nazionale. In genere, inizia, se non notano, dovrò cambiare, ma gli incipit dei miei ultimi articoli sono più o meno simili, e cioè prendo, inizia più o meno con un simpatico attacco nei confronti della letteratura esistente sulla prima Jugoslavia, così tanto per farsi amici tra i colleghi. Per il fatto che c'è questa ossessione nei confronti della questione nazionale, no? Se io dico Jugoslavia, a chi abbia avuto tra le mani dalla guida turistica al testo scientifico, cosa viene in mente? Il conflitto tra serbi e croati, ovviamente. E tutto si riduce più o meno a quello, ma questa non è la semplificazione della guida turistica. La guida turistica risente degli studi esistenti, oltre che dell'opinione comune, ed entrambi gli gli ambiti si fondano sulla questione nazionale, che dovrebbe riassumere l'intera storia del paese, perché non c'è, detto quello, non c'è poi molto altro da dire. In sostanza, questi si odiavano da sempre, se le sono sempre date, hanno provato più volte a stare insieme, non era, era impossibile per questo ovviamente la Jugoslavia si dissolta. Come avete capito dall'atteggiamento così ironico, non sono per nulla d'accordo con questa lettura, e un modo per contrastarla è quello di mostrare che c'erano ben altri problemi in questi paesi, perché era una società come tante altre, contrasti identitari, anche nazionali ce ne sono da tante parti, ma ci sono soprattutto interi segmenti della società dove la questione era del tutto ininfluente. Ma perché? Perché all'elemosinante interessava essere... percepirsi come croato o serbo, ancora meglio, l'interessarsi il poliziotto era croato o serbo, l'interessarsi se finiva il gatto a buio o meno, ma penso ovviamente alla seconda. E di più, sono le elite stesse, io ho studiato i diversi comportamenti, le diverse culture a Zagabria, a Belgrado, a Sarajevo, a Lubiana, eccetera. C'è una completa solidarietà quando si tratta di delle politiche nei confronti dei marginali, sono perfettamente allineati. E tutta la questione del conflitto nazionale si sbriciola, perché sono le questioni sociali che pure devono essere iscritte nella storia di questi paesi e forse dovrebbero occupare un posto maggiore, come anche in altri dibattiti. Dove l'attenzione dovrebbe essere maggiormente appunto alle questioni sociali, alle questioni della disuguaglianza, come combattere la povertà e attualmente altre questioni tipo come migliorare il clima, sono risento anch'io delle ultime, ma invece che concentrarsi, in questo caso riporto l'aggiornamento sul terreno scientifico, è invece che l'ossessione per i gruppi etnoconfessionali e le loro antipatie. Quindi nel mio, è vero, in Jugoslavia si caratterizza per la coabitazione di diversi gruppi etnoconfessionali, ma questo aspetto occupa nella mia storia un ruolo marginale, piuttosto marginale. E questa è una conclusione non da poco, perché stiamo parlando proprio che stiamo parlando di Jugoslavia. Quindi la difendo con forza e grazie per l'input. Per quanto riguarda l'eugenetica, l'eugenetica è proprio... fortemente presente, ci sono alcuni massimi studiosi jugoslavi sono in corrispondenza, pubblicano in tedesco, fanno pienamente parte della comunità scientifica internazionale, sono ancora dei residui lombrosiani, le prostitute vengono fotografate, misurate, il cranio, quei livelli lì ancora, proprio antropometria, e questo con ovviamente toni razzisti molto chiari, perché bisogna difendere la razza di jugoslava. Insomma, sai, il periodo interbellico, dagli anni 20 passiamo agli anni 30, sarebbe strano se non fosse così, e ovviamente era così. Ma questo non relativizza il problema, che era grave, ma sì, cioè, per quello che ho usato il termine, perché è in nome di quei principi che vengono messe in atto molte delle politiche di cui abbiamo parlato. E poi tutta l'ideologia ruralista che difende una presunta innocenza del contadino, che è il depositario della cultura nazionale, bla bla bla, bla. E questo, anche questo è assolutamente transnazionale, c'è anche lì, e gli ambulanti in parte aiutano, dipende proprio come si vuole interpretare il loro ruolo. Secondo gli ambulanti, loro difendono l'innocenza del contadino, perché loro riportano la spazzola e il cestino, così che non debba andare a compersi in città, esattamente come dici tu. E però ci sono anche letture opposte che dicono che in realtà questi ambulanti, oltre all'utile spazzola e al comodo cestino, portano una serie di porcherie, vere cianfrusaglie, tra l'altro vengono dette merci di Norimberga. È un'espressione che è completamente scomparsa, per questo se la si chiede a serbo croatofoni ora non sanno rispondere, ma ho dovuto ricostruirlo. E io a partire dalle bambole, probabilmente, no? I giocattoli e poi articoli inutili. E quindi diffondono articoli inutili che in qualche modo in realtà diffondono l'immoralità, il consumismo contemporaneo, la corruzione moderna, eccetera, nelle campagne. Quindi sia l'uno sia l'altro. ma adesso sono curioso di sentire l'intervento. Allora, le volevo chiedere se le risultanze dei suoi studi si possono estendere anche a un periodo antecedente, cioè quello del dominio asburgico, in conseguenza anche di quell'ordine che, di cui abbiamo avuto traccia anche in Lombardia, insomma, e tuttora. La ringrazio. Sì, ogni capitolo di questo libro inizia con la seconda metà dell'Ottocento e quindi quando abbiamo a che fare con i periodi, con i territori ex asburgici, deve fare i conti con le novità introdotte dal periodo tardo asburgico, per il fatto che il regolamentarismo, per esempio in Slovenia e in Croazia, non inizia nel 18, inizia prima, inizia nel 52, 1852, cioè quando l'intero impero asburgico si regolamenta la questione, se bene delegando tutto a livello municipale. Va bene, queste sono questioni tecniche, il punto è che senz'altro c'è una preistoria di questi fenomeni che bisogna prendere in considerazione, ovviamente, perché è una preistoria che viene in parte ereditata e che però non spiega quello che succede poi dopo, no? Perché c'è anche questa tendenza nella storiografia di enfatizzare le eredità post-imperiali. Cioè, siccome un territorio è stato asburgico, per carità, un lungo periodo, rimane sostanzialmente asburgico per sempre. C'è questa precisa teoria che ha diversi nomi, uno tra gli altri è un network di ricerca internazionale molto, molto bello, molto valido, con un titolo interessantissimo, cioè i confini fantasma, ma ha a che fare con la sindrome dell'arto fantasma, in quel senso, cioè il confine che esiste ancora lì dove è stato abolito. E ci sono studi quindi che hanno mostrato in varie regioni dell'Europa centrale come per esempio la questione della fiducia nelle istituzioni, una certa efficienza dell'amministrazione pubblica, eccetera, ma anche la diffusione dei pozzi, cioè delle pozzi d'acqua, le infrastrutture, eccetera. Ecco, come studiando la diffusione geografica di questi vari fenomeni o questioni, si possa ancora vedere che c'è questa eredità di lungo periodo delle regioni post-imperiali rispetto alle altre. Ok, benissimo, bisogna prendere l'esame se a distanza di un secolo, anche le ultime elezioni in Polonia, per esempio, il voto si distingue nettamente in base alle province ex asburgiche e quelle invece appartenenti all'impero zarista. Poi quelle tedesche. Ora, bene, però veramente questo non può spiegare tutto quello che è successo dopo. L'eugenetica ancora non c'era ai livelli che c'è stata dopo, la crisi del liberalismo, gli autoritarismi che sono venuti, anche in Jugoslavia nel 1929 viene introdotta una dittatura monarchica, negli anni 30 in Germania c'è il nazismo, in Italia c'è già da un po' il fascismo, si diffondono ideologie che sono nuove e che influiscono fortemente, c'è stato modo di ovviamente chiamarlo in causa nella relazione, ma influiscono fortemente quello che succede anche in un paese come la Jugoslavia, ovviamente, che non era sulla luna, era a fianco a questi paesi, era parte integrante dell'Europa. Quindi l'impero asburgico, come quello ottomano, perché ci sono in Jugoslavia, per questo che è interessante, c'è effettivamente regioni che sono anche post-ottomane e appunto altre che invece avevano ottenuto la loro indipendenza prima perché erano stati anche loro stati tributari e in qualche modo avevano fatto parte dell'impero ottomano. E allora effettivamente sì, come si configura la questione dell'elmosina in uno stato con una forte impronta islamica dove l'elmosina è uno dei cinque pilastri della religione presente, oppure in un paese a maggioranza ortodossa dove la cultura del dono nella il cristianesimo ortodosso è così importante e celebrata, come si concilia questo con il divieto, divieto di dare l'elemosina? Ha ricadute differenti in base alla regione? Questo bisogna chiederselo, purché poi non si spieghi tutto con questi approcci che vanno sempre molto indietro nel tempo e non esaminano poi le cose che succedono nel preciso periodo indagato, perché così facendo finisce che si spiega. Torno per esempio alla guerra degli anni 90, che è un argomento sempre caldo, solamente nessuno l'ha ancora chiesto, in genere di qualunque tema io parlo, quindi si chiede perché sono state le guerre degli anni 90, allora lo dico direttamente. Non è per via della guerra del campo di Merli, del Taso 400, no? Cioè, la famosa guerra Kosovo-Polia o di altre questioni così, o per via dei turchi, eccetera. Cioè, no, direi che la guerra degli anni 90 sono dovute a fattori molto contingenti, a delle precise persone che portano la responsabilità di quello che è successo, una responsabilità che non è solo penale. Così come nel mio periodo indagato le eredità storiche svolgono un ruolo importante, e però c'è molto altro che è veramente nuovo e che quindi va aggiunto. Sera non abbiamo poi altre domande, anche perché credo che la relazione sia stata molto esauriente, molto ricca, anche le risposte molto, molto nette, anche molto stimolanti. Credo che saremmo tutti interessati a vedere, non so se la versione italiana della pubblicazione, perché vediamo se uscirà in inglese questa, e quindi dobbiamo aspettare che la traduca poi in italiano per chi non ha voglia di leggersela in inglese, ma avremo modo magari anche di ritrovarci in un altro contesto poi più avanti, anche a vedere un po' questi sviluppi di questa ultima linea di ricerca di Stefano Petrungaro, che ringrazio ancora vivamente, e grazie a tutti innanzitutto per la serata. Dico solo l'ultimissima cosa, che il 9 aprile abbiamo l'incontro con Francesca Izzo, che chiuderà questa stagione del Caffè Philosophic sulle avventure della libertà dall'antica Grecia al secolo delle donne. Francesca Izzo è una delle esponenti del pensiero alla differenza in Italia, storiche importanti, e sarà interessante vedere anche lì, sentire una disamina di un altro tipo di riflessione sulla diversità dei pensieri divergenti, che chiama in causa il genere, che abbiamo stasera anche spesso evocato e che ci rimane sullo sfondo e che qui andiamo un po' a affrontare direttamente. Grazie a tutti ancora, buona serata. Arrivederci.